arrivando bene, sia di radio che di segnale. Ma non sentirò più nessuno, perché io purtroppo ho delle cose da fare, mi sono messo incasinato questi giorni, questo periodo. Ma non ci sta entrando più nessuno, non ne hanno voglia. Hanno anche ragione, perché c'è caldo. E beh, per un bel gas, va bene, Natale. Cava cava. Cava. Chi è che vuole entrare? Avanti. Ho detto, come state adesso? Negativi di lusso. Marco Mare, dai. E più di 3 settimane ci è durato. Cavolo. Beh, disarradi agli arresti domiciliari. Succede. So che vorrà da pigliarmi un break, un gatto, l'indomani va più rugubi. Ma dimmi tu, boh. Cazzo. Prima mia moglie, da poi deve essere mia moglie a contagiare da me. Cazzo. Da voi vanno a tali cose che succedono. Troppo. Uia, per carità. Ci siamo scesi le sediette giù per pigliarci il fresco e ci abbiamo pigliato la giunta, vero? Ma adesso non lo so se quello del secondo piano che ci ha contagiato, che si è avvicinato, ha contagiato a mia moglie e a me. Meno male c'era un altro amico lì e non l'ha beccato, se no guai. Sì, vabbè, portate se di bella, va, venisci di un poco. Infatti. Cazzo, c'è dovente in casa, cazzo, non è il massimo. 3 settimane è durato, io pensavo una settimana invece, sempre positivi. Sa cazzo. Uno o due tampone è muovato, sia qua che in farmacia. Ma che c'è canto Pennegra, è passato, non hai detto da nessuno, o non se ne sono neanche accorti. Se non se ne sono accorti se non avevano sintomi, ma mia moglie l'ha presa male, mala sorte. Io me ne sono accorto subito perché gli è salita la febbre, così all'improvviso, nausea, diarrea, vomito, non poteva mangiare niente, subito lo rivedeva. Gli ho fatto il tampone, era positiva. Così si dice. Invece mi ha dato solo febbre e e questo catarro che ho ancora. Ma vabbè, andiamo come vuole quello di su, tanto noi non comandiamo. Appunto, dai, l'importante è che state bene adesso e via, che si può rimediare sempre. E infatti, se non di naga ben mi pesi in tampone, in ghisi, in ghidu, mamma mia. Ho visto uno che vicino alla casa mia che c'ha un'antenna ma da tanti anni sul tetto, una super lembra, ha detto perché non lo rimette in moto il baracchino, ha detto io già ce li ho gli apparecchi ma l'ho detto più usando eccetera eccetera. Ehi, c'è la gente che ce li ha ma non c'entra, capito? E l'antenna è ancora buona. Ehi, me lo posso immaginare, però quando basta l'abbassione, vanno gli apparecchi, non è danno, però non entrano, capito? Caffa, chi si abbruia da casa ne posso fare 4 ieri, perché è veraggio in chibi, veraggio. Ehi, non vi posso ruedere, non li vai a me 4 ieri. Se non mi ricordo il meccanico di quella radio, cazzo, mamma mia. E adesso questi giorni. L'altro giorno l'ho accesa ma non mi fischiava, ma non mi ricordavo il meccanico. Cazzo, devo vedere un po'. Ma quella che c'hai tu? Eia. E fischiava. Fischia perché sicuramente ho toccato qualcosa, ma non mi ricordo dove è cazzo il Mickey Game, capito? Quella non la conosco, non l'ho mai avuta quella lì, quindi non mi ricordo neanche io, lo devi chiedere a quella persona, già lo sai. Già glielo chiedo, un giorno me la accendo, perché adesso vado, fra un po' vorrei vado su a dormire, perché giù non ci piace più. Gatta. Che giornata di merda. Oh, yeah. Ma anche stasera lavori oppure solo fino alla una oggi? Fino alla una e mezza oggi. Beh, gatta, mezza azzurrata, va. Gatta, il sabato è così. Manco di riposi. Antu. È una scelta che prima cazzo tanto è inutile, poi alla fine dovevi lavorare fino a quell'ora, è una scelta che abbiamo preso già da un po' di tempo. Inutile che me ne vado all'una, cazzo, magari viene un cliente più tardi, cioè viene, perché tanto va a finire sempre che sola da botina andavi. Alla fine cosa hanno fatto 2+2, hanno fatto, vabbè, chiudiamo all'una e mezzo, forse è meglio. Alla fine i clienti vengono, cioè qualcuno viene sempre verso quell'ora. E tu, alla una e mezzo si arredi e vi nandetti. Da voi si vengono i clienti, scusi, ne la faccia lo cancello. Basta scriverlo nel cancello, gli orari. E così lo sanno la gente che devono venire prima della una e mezzo, il sabato. Uè Luca, buongiorno, no, prima cosa chiudevamo all'una, adesso una mezz'ora in più fa sempre bene. Buongiorno! Ehi, buongiorno, buongiorno. Cappa, è bello. Ieri sono rimasto a casa, Antu. Ah, dopo, mi sono preso la pizza, la birretta, ciao, arrivederci, grazie. Va tu bene. E tu dove vieni, a Costantino? Siamo andati un po', ma non c'è nessuno in giro. Lo so, via qua la pallina. Cappa. Dì che ti saluta Franco, mi qua, Luca. Che è Franco? Franco. Ambulanze? Ehi. Asso, per cosa cambia? Cappa, e già in occhi. Adalino può comare. Vai, drogato. Odusa. E anch'io lo so, perché? Non lo sapevi che lo sapevo. E poi ti ho visto io sotto il ponte. E allora? E c'è un attimo che entro nel sito del comune, un attimo, per gli affitti, vediamo un po'. Le prendi altro. Cappa. Ehi, a me ti arrivo al monte. A voglia, fai. 1,3 prova. Sul più 6 è più 30. Sul più 6 è più 30. Cazzo. Ci vuoi dimostrare la porta, non è problema. Cazzo mi ha segnare lui. Contenta zia, va Antonina. Andiamo Catalina. Cazzo mio. E adesso lo dico a quella persona e te lo unzo, mi. Fai da bravo. Capo. Ma te l'immagini questo Luca? Bobo. Mica un segnalone, mi, da qua al monte. 9,30. Lo so che è un segnalone. Non lo so in corso dritta com'è, però. No, dove stai arrivando qua? E forse è un po' più tappato, Ma è un segnalone, mi. Contando dove sei e dove sono io. Che vabbè, c'ho la potenza giusta, c'ho. Io quanto ti sto arrivando lì? 9,5. Così. Io c'ho pochi watt lo stesso, non ho bisogno ma farvi da un sassari, poi il lineare già lo sai che non ne ho. No vabbè, adesso sto uscendo con la potenza giusta, prima non uscivo con la potenza giusta perché va a abbassare. Infatti, sta arrivando benissimo, la radio è super 5. No, 87 ciumi. Ehi, già si vede, cavolo. Sta arrivando benissimo di radio qua. Sia di radio che di segnale. Non so tutti che arrivano da lì con quel segnale che c'hai tu. Caramba. Ciao, la 87 è l'MB più 4. È una bombetta questo microfono. Ehi, gli ero un grido che è una bombetta. Cappa. Gloria! Hai andato a sabato. No, io oggi sabato. Hai andato all'anno e mezzo. Almeno così ti puoi riposare, Antù. Ehi, aspetta che esca al lavoro, che fa ma con Salvino Bilampato. Certo che è brutto, mi. A stare buttato non ti passa più il tempo. Invece, se c'è lavoro, se ne arriva alla 1:30 manco te ne accorgi. Ebbene, Antù, ti hanno pagato i servizi. Allora, quello delle candeliere sì, l'altro sto ancora aspettando. Molto erano le candeliere. 100 euro. Buono. Ma devi essere un bel d'ore in piedi, però me. E un bel di ore, dalle 4, oggi arriva a mezzanotte. Dalle 3 e mezza per tornare a luna di notte. Ebba, cazzante. Già si può fare, dai. Ciappa. L'altro, quello di Monti, sto ancora aspettando. Beh. È strano che l'abbiamo chiamato quel mio amico Paolo, qui c'è visto che si rivolge gente. Beh. Non lo so, no. Paolo, chi Paolo è? E Paolo faceva la servizio alla torre, se ne ha dietro. Ah. Non lo so, Bobina, vabbè, ma era anche chiamato, magari non è andato. No, non l'ho chiamato. Gappa, io adesso come oggi, cazzo, non mangiamo da forse i video ancora. Mi devo dare ancora quei soldi. Gli ho chiamato una persona e dice che... E dice che ancora non si sa niente. Beh, cazzo, ma dammi altro lavoro pure. Ma se hai ad esempio le roghi, mi vuoi chiedere via 150, 160, boh. E allora rimagnimi. Che ho fatto da... Là ho fatto dalle 3 fino alle 3 del mattino. Siamo arrivati a quell'ora a Monti. Adesso, ancora io sto aspettando e non mi ha chiamato da forse in video. O non ce n'è, o non lo so. Ehi, ma non ce n'è. Cioè, poi immagino dove c'è là, perché allora io ho saputo anche che molti servizi se li fanno loro, invece i già ma, però che andare al momento del bisogno, ho cazzo di servire a niente. È quello che mi dà un po' fastidio. Cosa vuoi fare? Non so, Anto, purtroppo è un casino. Ma, dai, gandariri, ma... Guarda, no... Sinceramente... Tornando indietro non lo so se l'avrei fatta. Gente che ti provoca e ti rompe le balle, tu che stai lavorando. Poi che l'ho provocato? Erano prese insulti, perché loro dovevano fare il video col... cellulare, a me se il dirigente mi dice stare lì, cazzo, cerca di capirlo un po', poi anche con la prepotenza, cioè la questa stronza mi ha detto, no, non posso entrare perché vuoi entrare, avanti buon cammino, vediamo se dici qualcosa, proprio senso di sfida. Che era tutto chiuso, era lì, dovevamo starci noi e basta, come senso di sfida. Dietro cerca di non fare tanto di spiritoso, se no ti sto chiamando i carabinieri. Ho detto, cazzo, da lì stava partendo già la rissa. Ti ho detto, cioè. Poi alla fine io mi sono spostato un po' e non me ne sono accorto, c'era il bambino, lì ho chiuso la visuale, l'ho chiuso, ma perché logicamente devi stare lì. E attaccandomi la moglie, non so se la compagna o la moglie, Edo, mi ha detto non so cosa cazzo tu mi bazzia, gli ho detto, poi mi sono rotto, ho detto adesso mi hai rotto le balle, gli ho detto non devo stare lì a lottare con te. E poi non gli ho detto, cioè, io gli ho detto qua, stavo facendo il problema, cazzo bombata, gli ho detto qua. Gli ho detto guarda è che sono qua in servizio, se no stai tranquillo, che a te ti avrei fatto male. Poi è venuto il dirigente. gente subito, no, lascia, beh, vattene via, mi ha detto, spostati, mi ha detto, vattene là. Perché io gli ho detto in faccia, gli ho detto, proprio perché mi stava insultando, rompendomi le balle. Gente schifosa e di merda. Non solo lei, anche gli altri. Cioè. Gente, prendili dopo, tutti imbriachi, cioè veramente, gente di cazzo, brocchio, merda. Mica se poco a poco non ero stato in servizio, non so come te l'abbia fatto una faccia, perché l'avrei agganciato. Ma sai come l'avrei fatto? Tutta mia faccia l'avrei abbigliato. Poi ti comprometti e poi ci imbigliare come te possa, ma... E me lo succiane alla fin fine. Ma comunque anche i miei colleghi mi hanno detto che sono andati al concerto dell'ITP, ma lì dice che gli hanno preso a parolacce, ne hanno detto tutto di più, ne hanno detto. E loro purtroppo devono stare buoni perché non vogliono far casini. E te credo. Gente maleducata e pezzo di merda. Perché loro dovevano stare col telefonino, ecco, pure le altre signore, no, ci può spostare che io devo fare il film, ma gli altri signori, se a me il dirigente mi dice stare qua, che ci posso fare? Poi gli ho detto, no, non se la prendono con lei, se la prendono con me, perché io non ho fatto il lavoro giusto, ma faglielo capire. Lo so, un casino, Chiaba, sei tranquillo che se ero stato uno delle forze dell'ordine se avrei avuto il potere, poi già non ne abbiamo mai bisogno male perché gli avrei puntato il tesserino, io vieni con me, vieni. Ma già aveva chiesto della Dicos, vera pure una famiglia, un altro che gli ha aperto la sbarra, c'era tra quella gente c'era, e Baciamallo mi dice guarda che c'è un problema se mi può aiutare. E c'era anche il vigile urbane. Vedi già, ma gli ho detto guarda che ti sto chiamando a loro, gli ho detto, mi non fa tanto il dopo. Già, ma ragazzo me la putti, questo è maleducato. Mi ero accorto troppo in privato. Dico, dimmi cosa vuoi fare di Lugoso, ma avessi fatelo dopo. Dico che se mi dicono che sono gatto a faccia, da ne esci. Me ne hanno detto poco, me ne hanno detto, poi gli dico tutte le parolacce che hanno detto a me in faccia, glieli dico davanti. Ti credo. Casino. Dico, dimmi cosa so, buio, dimmelo adesso. Sono delle merde, Beh ragazzoni, io vi saluto, dai, ce la risentiamo. Ciao Antu, buon tutto. Ciao voi, alla prossima. Beh, ciao Lu. Che devo uscire, ci sentiamo alle prossime. Ciao Natale, buona giornata, ciao. Ciao dalla concetta, ciao. Ciao.